Il mago di Oz. Nella foresta. Dorothy camminava ormai da molte ore quando la strada cominciò a cambiare. Qua e là i mattoni gialli erano rotti e dopo un po' il selciato era pieno di buchi che Toto saltava e Dorothy evitava girandoci intorno. Ma lo spaventapasseri inciampava continuamente, cadendo lungo disteso sui duri mattoni, e ogni volta rideva mentre Dorothy lo aiutava ad alzarsi. Quei mattoni non mi fanno male, confessò dopo il primo urzolone. L'unica cosa che può farmi male davvero è un fiammifero acceso. E ora lascia che ti aiuti a portare il cestino. Continuarono a camminare con Toto davanti a loro. Intanto la campagna si faceva sempre più desolata. Verso sera entrarono in una fitta foresta dove gli alberi si univano sopra la strada senza far passare la luce. Continuarono ad avanzare tentoni nel buio e Dorothy non ne poteva più dalla stanchezza. Finalmente arrivarono a una capanna di legno. Era deserta, ma in un angolo c'era un giaciglio di foglie secche sul quale Dorothy e Toto si addormentarono, mentre lo spaventapasseri, che non era mai stanco, aspettò in piedi il mattino. Quando Dorothy si svegliò, il sole illuminava la capanna di legno. Aveva una gran sete e così, insieme ai suoi amici, uscì e vagò fra gli alberi finché scoprì un ruscelletto. Prima si lavò ben bene e poi, insieme a Toto, fece colazione col pane e l'acqua fresca del ruscello. Lo spaventapasseri non mangiò nulla perché, come spiegò, lui non aveva mai fame. Stavano per tornare sulla strada di mattoni gialli quando Dorothy trasalì. Aveva sentito un lamento che giungeva da lontano. Cos'è? Non ne ho idea, rispose lo spaventapasseri, ma possiamo andare a vedere. Fecero qualche passo e Dorothy rimase senza fiato dalla sorpresa. Uno dei grossi alberi era stato tagliato a metà e lì vicino, con l'accetta alzata, c'era un uomo fatto completamente di latta. Stava lì immobile, come se non fosse capace di spostarsi. Eri tu che gridavi? Chiese la bambina. Sì, son proprio io, rispose l'omino di latta. È più di un anno che mi lamento, ma non mi ha mai sentito nessuno. Cosa possiamo fare per te? Dovete ungermi le giunture. Sono così arrugginite che non mi posso muovere. Se mi oliate per benino, starò subito bene. Troverete l'oliatore su uno scaffale della mia capanna. Dorothy corse a prenderlo e con l'aiuto dello spaventapasseri unse il collo, le braccia e le gambe dell'omino di latta, che sospirò di soddisfazione e abbassò lentamente l'accetta. Oh, grazie! È da quando mi sono arrugginito che sto con quell'accetta alzata e sarei potuto restare così per sempre se non foste arrivati voi a salvarmi la vita. E voi, come siete capitati qui? Stiamo andando alla città dello Smeraldo a trovare il grande mago di Oz. Voglio che mi faccia tornare nel Kansas. E lo spaventapasseri vuole che gli metta un po' di cervello nella testa. L'omino di latta ci pensò su. Credete che il mago potrebbe darmi un cuore? Oh, se può dare un cervello allo spaventapasseri, non vedo perché non dovrebbe dare un cuore a te. Oh, sì! Disse lo spaventapasseri. Vieni con noi, ci farà molto piacere la tua compagnia. L'omino di latta chiese a Dorothy di mettere l'oliatore nel suo cestino per prevenire la ruggine in caso di pioggia. Si mise l'accetta in spalla e si unì al gruppetto. Poi tutti insieme si diressero fra gli alberi verso la strada di mattoni gialli. Non si udiva più neanche un cinguettio, ma si sentiva il cupo ruggito di qualche belva nascosta e il cuore di Dorothy cominciò a battere forte. Non avere paura, disse l'omino di latta. Il segno lasciato sulla tua fronte dal bacio di una strega buona ti proteggerà da ogni pericolo. Mentre stava ancora parlando, si udì un ruggito terribile e apparve un grosso leone che con una zampata fece rotolare lo spaventapasseri sul ciglio della strada. Poi afferrò l'omino di latta e lo sbatté a terra. Quando il piccolo Toto gli corse incontro abbaiando, il leone aprì la bocca come per inghiottirlo, ma Dorothy si fece avanti e lo colpì forte sul naso. «Non osare mordere Toto, sai?» gridò. «Dovresti vergognarti! Un animalone grosso come te mordere un povero cagnolino!» «Ma non l'ho morso!» disse il leone sfregandosi il naso con la zampa. «No, ma stavi per farlo! Sei proprio un gran codardo!» «Lo so!» ammise il leone chinando la testa per la vergogna. È il mio grande cruccio! Se gli elefanti o le tigri o gli orsi cercassero di attaccar briga con me, io scapperei! Sono talmente fifone! Ma tutti pensano a me come al re degli animali e mi basta ruggire per farli scappare via tutti!» Si asciugò una lacrima con la punta della coda e sospirò. «Oh, se potessi essere coraggioso!» «Magari il grande mago di Oz ti potrà aiutare», disse Dorothy. «Stiamo andando tutti a visitarlo nella città dello Smeraldo. Lo spaventapasseri gli va a chiedere un cervello, l'omino di latta un cuore. Tu potresti chiedergli il coraggio». «Allora, se non vi dispiace, vengo con voi», disse il leone. «Sei il benvenuto, così terrai lontane da noi le altre bestie feroci». E il gruppetto si rimise in cammino. Il leone incedeva maestoso accanto a Dorothy. Avevano fatto un bel pezzo di strada quando Dorothy si avvide che l'omino di latta si asciugava le lacrime. «Ah, ho pestato uno scarabeo e l'ho ucciso, poverino!» spiegò. «Devo guardare dove metto i piedi. La gente senza cuore dovrebbe cercare di non essere crudele o scortese con nessuno». Dopo un po' cominciarono a udire degli strani grugniti fra gli alberi. «Temo proprio che siamo capitati nelle terre degli orsagri», bisbigliò il leone. «Sono bestie mostruose col corpo di orso e la testa di tigre e con artigli così acuminati che potrebbero squartarmi con la stessa facilità con cui io potrei uccidere Toto». Dorothy rabbrividì e stava per dire qualcosa quando si trovarono all'improvviso davanti a un profondo burrone. Si guardarono sgomenti e si fermarono per esaminare il da farsi. «Credo di aver trovato!» esclamò infine lo spaventapasseri. «Guardate, vicino all'abisso c'è un grosso albero. Se l'omino di latta lo abbatte in modo che cada attraverso il burrone, potremo usarlo come ponte!» «Bravo, questa sì è una buona idea!» disse il leone. «Si potrebbe perfino sospettare che hai un cervello in testa invece della paglia». L'omino di latta si mise al lavoro e maneggiando la sua ascia filata in un baleno fece il ponte. Stavano per attraversarlo quando udirono un ruggito furioso e videro due grosse bestie correre verso di loro. «Oh, sono gli orsagri!» disse il leone tremando. «Presto!» gridò lo spaventapasseri. «Traversiamo il ponte prima che arrivino!» Dorothy passò per prima con Toto in braccio, poi l'omino di latta e lo spaventapasseri. Il leone si volse verso gli orsagri con un ruggito così tremendo che per un attimo quelli esitarono. Poi però ripresero la loro corsa. Il leone traversò il ponte e quando si girò vide che quelle bestie feroci stavano ancora seguendoli. «Nascondetevi dietro di me!» disse. «Combatterò finché avrò fiato in corpo!» «Non disperate!» gli esortò lo spaventapasseri. «Se l'omino di latta taglia il ponte saremo salvi!» L'omino di latta afferrò l'accetta e proprio mentre i due orsagri stavano per raggiungerli, l'albero cadde nel burrone, trascinando con sé le due grosse bestie. Il leone tirò un profondo sospiro di sollievo. «Oh, il cuore mi batte ancora dalla paura!» «Ah!» disse tristemente l'omino di latta. «Magari potessi avere io un cuore che batte!» Questa avventura rese i nostri viandanti ancora più ansiosi di uscire dalla foresta. Camminavano così veloci che Dorothy e Toto all'imbrunire erano tanto stanchi che dovettero montare in groppa al leone.